certo un po' di pioggia questa notte mi darà. Sospirando sopra i tetti il dolore dorme già, e penso come neve sei dissolta tu così, mia regina, nella notte hai lasciato il cuore qui. Sulla collina il vento tace e la bambina dorme già, e sogna il sole, l'alba nasce e canterà. E la bambina dorme già, e sogna il sole, l'alba nasce e canterà. L'altra luna piena in questo azzurro morirà, si accende alto il fuoco e brucia il cuore e l'anima. È dolce addormentarsi e giocare insieme a te, che ridi, balli, volano le vesti e guardi me. Un'altra luna piena questa notte mi darà, sospirando sopra i tetti il dolore dorme già.